sistemato. Io la tolgo da dietro l'antenna, capito? Il filo lo tolgo da dietro, quindi non aggiungo proprio nulla. Ma l'attacco te l'avevi cambiato, non ti avevi messo quella farfallina l'attacco, scusa. Con la magnetica ce l'ho la PLC 800, l'attacco a farfallina è per quella piccolina. Ah ecco, dai, ho capito, no, non avevo capito che la mettevi con la magnetica, quello che non avevo capito. Ma hai risolto con la magnetica, chi lo fa di arrasto? Ehi, sei una bomba quell'antenna, perché gli ho pulito la vernice, ho dovuto usare la fresa per lucidarla, perché non usciva, la vernice è troppo resistente, mi. No, fasi a rasciarla. Allora ho preso la col trapanino, la fresetta che c'ha, e lì sono riuscito a lucidarla con quella. Ed è uscito un bijou travaglio. E domani capace che scendo anch'io, che è festa, ci porto il cane. E scendo a farmi un giretto anche io, dai. C'è bene che ci dei panini, mi posso un panino in chip e via. A te se devo fare giù. Cosa e via. Se fa sole scendo anche io a pigliarmi un po' di sole, capito? L'importante funzione che... Me lo scendo dalla macchina, mi siedo lì fuori dal bar, mi piglio il caffè e aspetto a prendere un po' di sole, capito? Ho fatto così stamattina, perché io lo sto facendo, perché sto pigliando quelle gocce di vitamina D e dice che bisogna prendere il sole. E in effetti la debolezza ce l'avevo. Me lo dai di voce alla tradica quando me ne sono cominciato dalla macchina. Va bene. Anche a me l'ha fatto la te, lo sai. Me l'ha fatto oggi a pranzo a casa di mio figlio. E praticamente c'erano le cicale, il sugo con le cicale, camperoni, cicale, un po' di tutto, roba pescata fresca. E mi ha invitato a mangiare che era da solo e sono andato a casa sua. Beh, se la stavo andando in terrazzo, cazzo, mi è venuto questo capogiro, stavo quasi per cadere. E una debolezza strana mi è venuta. E il capogiro ti viene questa debolezza, stavo barcollando, ti giuro. Infatti me l'ha detto anche Giuseppe, che anche lui ha carenza di vitamina D e gli ha fatto questo lavoro. Io invece ho carenza di vitamina D come domodossola. Infatti mi ha dato queste gocce, le devo prendere una volta al mese, sembra olio di ricino natalino, non ce n'è molte, è una goccia, come te lo bevi sembra che tu stai bevendo olio di ricino, è roba a carità, è schifosa. Sì, non viene... Aspetta un attimo, signore, bene dentro. No, io sto pigliando queste gocce, 20 gocce al giorno devo prendere, Cole calciferolo si chiama, vitamina D di domodossola proprio, quella che ho la carenza io, e ti basi chi sul travaglio? Quello lì ha più di stare in casa, ma dice che noi sardi ci abbiamo carenza tutti quanti vitamina D, questo me l'aveva detto la dottoressa, dice infatti io non do nulla perché è una cosa che tutti i sardi hanno, e invece il dottore deve aver parlato, metto che ce l'avevo a 16 ed era troppo bassa. Allora hai fatto bene che ti dà quella roba lì. Io sto pigliando queste 20 gocce, però esci a pigliare usorimi, perché ci vuole il sole per metabolizzare questa vitamina D. Ma io già lo prendo quando c'è, se non ce l'ha più già lo prendo, perché io esco col cane, vado, mi faccio le passeggiate lunghe e cose, quindi il sole già lo prendo. Ma sono da un paio di giorni che voglio andare a Plattamone, non riesco mai a decidervi di scendere. Allora prendere un po' di sole anche col cane a fargli fare una passeggiata all'aria aperta. Io non lo mollo, lo tengo a guinzaglio sempre. Ci ho visto gente che i cani in spiaggia li molla, se trova qualche altro cane da fare. A me la giubbucciato la tradia a Romeo e vera chisso di mitraglia Ribaru e mitraglia va via, un guinzaglio in mano, cioè un guinzaglio, un pezzo di cannao va via. cazzo, e l'ha lasciato libero, fa un po' come morsica al cane, ci mi abbiamo segato un cane e la buttava, mi butto sempre un guzzetto mai il morsello, ma dai, a qualcuno c'è il bideggio di cigani. E io la sette lo trovano un casino, la taglia a me in tribunale, sono andato a fare in tribunale a fare una cosa e mi hanno bloccato all'entrata, hanno detto lì c'è un coltello nel borsello, ma non mi lamentavo manco più una taglia, lo usavo, lo sai perché cosa? Per tagliare il nylon delle pedali quando devo portare l'acqua nei negozi. E praticamente me l'ero anche dimenticato di averlo, che non lo usavo. Beh, lo sai che me l'hanno sequestrato e mi hanno detto che ero passibile di denuncia per la legge contro sabudosa. E fatto sta che me l'hanno preso, qui è uscita, me l'hanno tornata, mentre se ricordi che la prossima volta sono costretto a chiamare la polizia. Questi sono i vigili, le guardie giurate. Sì, sì, c'è stato un carabinieri e un poliziotto, non ti aveva lasciato passare. Aveva denunziato, perché non si può tenere, è vero. Ma tu se sai che devi andare a questi posti, lo lasci in macchina al coltello, e che tu te ne eri dimenticato. Adesso me ne metto uno in macchina e se mi racciappo nei 5 mesi per i baribanini. Cazzo! In che cosa? Sì, ti credono subito. Non accettano ignoranza, non ammettono ignoranza, dicono così. Tu pensa che io gli ho detto, guardi che non c'ha quattro dita questo coltello, è a tre, quindi non esiste più quella legge lì. Tutti i coltelli, tutte le armi e cose in tribunale non si possono portare. Vabbè, ma me ne sono dimenticato, io lo usavo per lavoro, la verità, ho detto, vabbè, mi ha creduto la verità, perché se no... E poi quando, me ne sono, quando sono uscito me l'ha ritornato. E infatti io lo usavo per tagliare i cosi di lavoro, lo usavo per lavoro io questo coltello. E mi è rimasto nel borsello, pure dimenticato, me ne ero avviudito. Se no mica me l'avrei portata appresso. E così gli ho detto. Io stavo ancora lavorando in quel periodo, stavo lavorando ancora. Era, me lo ricordo bene, il 21 aprile 2015. E poi non è neanche un coso giusto che uno debba usare il suo coltello personale. È l'azienda che deve fornire una taglierina, qualcosa che serva per quello, per fare quel lavoro lì. Il dipendente non lo deve avere appresso, lo prende quando lo deve usare. E già c'erano le taglierine, ma ti faccio le mani, ti scappa, guai, la taglierina è micidiale. Il coltello, diciamo, lo gestisci più bene, dai, tagliamo. La taglierina se ti scappa, guai, ti fai dei sindagli allucinanti. No, ma già ce la davano la taglierina, la taglierina, solo che me la rubavano dal cassetto, la mettevo nel cassetto della scrivania dove facevo l'accettazione della merce. E me la rubavano i colleghi, capito? Me lo posso immaginare, non è possibile, non ti puoi fidare di nessuno. E beh, pure tu non ci credi, c'ho quel coltello io, guarda, che stavo tagliando l'aglio oggi, no, per togliergli la pellicina. Cazzo, se non stai attento mi tagliavo, a chi taglia come un rasoio. E anche il mio adesso l'ho affilato, no, c'ho l'affilatore io qua nel Solognacchio, poi taglia un bel, devo dire, per la salsiccia va benissimo a tagliarla, con i coltelli di cucina si spappola tutto quando è fresca, invece quello lì la taglia bene fino a fila perché taglia un rasoio. Sì, infatti forse c'è qualcuno sotto, magari è entrato Marco. Oh, lo capivo, ciao, aspetta un attimino, aspetta che abbasso qua, aspetta un attimo, lo capivo, c'è cioè, stazionario, lo capivo cos'era, ho stato toccato il tasto, quello I love, H.I. love, ti cavolo si chiama, lascia a posto, mi sentite bene? Io. E cosa l'ha messo in AI? H.I.? Lascia H.I. apposta, aspetta, scusa, si lascia a posto, c'è un stazionale alte, e siamo, eh? Allora sei a posto, dai. Ecco, ma noi ci dovevo inviare, ma forse è lo strumento che stava scegliendo male. Ho spostato di banda già, sta la tarina. Aspetta, già dai puntati di adesso. Oi. Non stai bene ancora. Quella? Non stai ancora bene. No, ho preso, costato, già preso 150 euro. Non ho capito. Ho speso già 150 euro. E per che cosa? Le pomate, le pastiglie, lo spray, poi questa specie di bibero, no? Per fare le docce si mette le due medicine e mezzo con la soluzione fisiologica. Un casino, ancora non ho finito, perché la pomata mi sa che non me la devo ricoprare due o tre volte, costa 15 euro. Certo, allora. Casino, Il pagamento, vedrà che andiamo a finire come gli americani che pagheranno tutto. Adesso, quelle gocce che mi ha ordinato per la vitamina D, quelle le pago io. No, io le prendo farmacia e non pago niente. Ma le ordino al dottore e non pago nulla. No, a me mi ha fatto la ricetta bianca, proprio a pagarli, chissà di diesimi. Perché tanto non le pagano loro le cose, le ha fatti nulla, Levo bene di baracca, paga una cosa, paga l'altra, l'altro giorno sono uscito 150 euro anch'io lasciato. Tra 730, SS3 eccetera eccetera. Sì, da una mano di disagine e dall'altra di Bigliani. Ah, la zucchica. E andiamo a finire tutto, che se non hai un'assicurazione non ti puoi manco curare. In America è così, paghi tutto. E anche per il cane conviene fare l'assicurazione. Se lo devi operare, roba del genere, ti paga tutta l'assicurazione al 100%. Se l'ha fatto questa amica mia, paga una gazzata e lì tutte le cose deve fare al cane, paga l'assicurazione. Informati, che me la faccio pure io, perché cazzo non si sa mai. Già ho pagato 1500 euro quando l'hanno operato. Ma è una gazzata, una volta lì che si paga, una cazzata al mese che si paga. Una fesseria, però almeno c'hai la sicurezza che se tu devi fare qualche intervento, qualche cosa, che costa un sacco di soldi. Adesso stavo seguendo questo cane che c'è su internet, che gli si sono paralizzate le gambe, da delle c'ha delle, come si chiama, non mi viene, nelle giunture delle zampe, ci si sono formate delle incrostazioni, non so come dirlo, e la devono operare in tre punti. Sui 5.000 euro ci vuole. Ehi, ti uso così sempre, cioè filiati di veterinari. Cazzo. Deve esserci avuto qualche calcificazione questo cane, in queste zampe. Ehi, gliela bloccate, Natali, non cammina più. E hanno fatto una colletta. Prima erano 3.500, mi pare, poi ne hanno trovato altre due, deve essere operato in tre punti diversi. E poi dice che cammina. E hanno riaperto la raccolta fondi perché l'avevano chiusa, dicendo ringraziando a tutti perché l'avevano già portato. Si chiama Zeus. L'hanno portato già a operare, però devono dargli altri soldi adesso. Sono filiati, specialmente quando operano, mi ti chiedono una barca di soldi questi veterinari, perché hanno ragione. Cazzo, se lo Stato non rispondi, devi rispondi tu. Ce l'hanno diretti i soldi subito, senza aspettare che li paghi l'SL, chi darsi. E ce li hanno subito in tasca, però adesso non mi fregano più, perché sono andato a fare 7.30, tutte le visite che ho pagato con i soldi non me le hanno presi, perché dice che bisogna pagare adesso con la carta, perché si deve trovare la tracciabilità di quello che paghi. per cui non gli do più soldi in contanti, pagherò sempre con la carta adesso. Vedi, il mio dottore non ne aveva di carta di credito, gliel'ho chiesta, e erano 70 euro di certificato, e li ho persi perché non c'aveva, niente, ancora non l'ho messo. Sì, a chi non va via Rubos. Perché devono essere tracciabili dallo Stato questi soldi, hai capito cos'è? Per fare gli incroci serve, amico. E allora ti fanno, adesso ti controllano anche se spendi soldi per comprare un paio di mutande, tutto gatto, tutto la tracciabilità, perché anche la roba del veterinario, anche il mio veterinario non ne aveva di POS, e ogni volta devo pagare i contanti. E adesso speriamo se l'abbiamo messo, perché se no non posso scaricare, mi capisci? Ehi, fino a Simone il coso, questa è l'ultima volta che mi vede. E ti chiamo il veterinario. Ti pigli uno che viaggia, Rubos. Se no ce li rimetti sempre i soldi. Lo fanno apposta a me. Se lo Stato, perché non vuole avere soldi contanti, noi, per poterci rintracciare quando spendiamo. E invece io preferisco averli in contanti. Se preferisco avere i soldi contanti, così so quello che spendo. Avanti Luca. Luca. Sarà spostato. E cosa vuoi? Purtroppo è così. Anche io preferisco i contanti, però vedi, i soldi contanti non ne hanno nome, capito? Invece la carta di credito sì. E adesso dice che vogliono togliere anche, ma non si sa come uno deve fare, vogliono, allora gli assegni li hanno già eliminati dall'otto assegni non se ne possono più usare, mi ha detto se c'ho carne d'assegni riportateli che vi devono distruggere loro, e ho chiamato la banca, perché dall'otto non si possono più usare, e anche se c'hai soldi in banca non li pagano se tu fai l'assegno. Scusa, già, la stavo parlando con la 50, capito? E non ho seguito quello che hai detto. Ho detto che dalla banca mi hanno chiamato che dall'otto non si possono più usare assegni. Se c'hai assegni, mi ha detto, se hai gli assegni li devi portare qua che li dobbiamo distruggere insieme. Io mi è rimasto un carnet d'assegni perché io lo usavo per pagare il condominio, quello lì, adesso sto facendo il bonifico, non sto usando manco per quello, cioè non hanno più valore gli assegni, anche se sono in circolo ancora non hanno più valore di nulla, non ne sto più usando. E se non vuole più trattarne assegni? Intervengo. Delle leggi del cazzo sono, boh, io non lo so. In mano ai pasticci siamo arrivati, boh, è proprio il caso di dirlo, insomma non lo so. Veramente le scatole. Allora, se non si deve comprare la macchina, bisogna di vivare secondo te. Il banco vale più di 1000 euro, a me non mi dà. E cosa vuoi? Comprati la banca. Boh, non lo so io penso che accettano la carta del banco, ma se ti devi comprare la macchina, perché più di quel tanto in contanti non puoi avere. Si assegni non li puoi fare, ne manco. Un cosa cazzo paghi? Boh, già, non lo so io. È quello che mi sono domandato io, ma il mio banco, prima era 500, adesso me l'hanno aumentato a 1000 euro, più di 1000 euro al giorno non posso prendere. Prima facevo un assegno, come ho fatto quando ho preso l'opera, ho fatto un assegno unico e via, quando l'ho pagata. Ma così cosa faccio? Boh, assegno non si rivolgeva più, il banco vado più di quell'altro al giorno, non ti dà, come lo paghi? Chi lo sa? Chissà chi lo sa, Non so, magari ti faranno un assegno circolare in banca se devi fare pagamenti grossi, non lo so come funziona, ti dovresti informare. Ma se gli assegni non si vuole più fare di mangiare assegni circolari, gli assegni andranno tutti completamente dalla circolazione. Quelli bancari, lo credo. Però quelli circolari li fa la banca, capito? Non tu. Se li tolgono dal conto e ti fanno l'assegno. Cazzo. E così penso. Quelli normali, logico che se non vogliono usarli, li tolgono. Perché tu, quando devi fare un pagamento, pagamento grosso, se no come cavolo fai? Più che così non si può fare. Ah boh, e vabbè, tanto pagamenti grossi non aggiudicai, quindi... Quindi l'unico pagamento grosso è per cambiare le ruote alla macchina, che le mie sono ben grosse. Sono 205/17. Quelle lì costano un sacco di soldi. Lo so, più grandi sono più costano. Ma in che mondo stiamo vivendo? Cazzo, la macchina mia l'ha pigliata su una mano per aiutare tutti i contanti, Lidina. Quante ore ce l'hai tu adesso la tali quella macchina? Del 2001. Buonasera. Era nuova quando l'ho presa, a 29.000 km aveva, perché quello che ce l'aveva, l'ho trovato pure, quello, il primo proprietario, l'aveva riconosciuta dalla targa. Io l'ho presa dopo un anno, è del 2001 quella macchina. Ce l'ho 20 anni io, 20, no, di più di 20 anni, 22 anni raggio. Figurati. Vabbè, tu facevi pochi chilometri, dai, forse anche per quello che ti è durata l'ora. No, prima ne facevo molti, adesso negli ultimi tempi non la stavo più prendendo. E il padrone come l'ha versata così nuova? Per pigliarsi un'altra? No, perché quella lì era troppo piccola. Siccome siccome questo era il rappresentante, no? Più gli era nato un figlio, lui era troppo minori e quindi si è preso una di quelle come quella che avevi tu, però diesel, quella station wagon, ma come cavolo si chiama? Sì, però a diesel ce l'aveva presa lui, che era il rappresentante. Ehi, se se la prendeva a gas, se non sbagliavo, consuma di meno, cioè paghi di meno il pieno, tutto quanto, col gas se non aumenta, guarda, è una pacchia. Ma io me ne dimentichezzo di buoni gasoli, non vi credi tu? La mia non consuma nulla, ed è 1900 turbo diesel. Ma tu non attivi, vai a 80, capito? Quindi se non attivi la macchina non consuma molto, specialmente quelle diesel. Comincia a consumare se tu la fai andare la macchina. Sì, oggi l'ho tirata a 100, tirata, è andata a 100, gatta macabizzato, prima l'avevi rubato da radio, più di 80 non andava, la cosa, se no mi puniva la muccia da me, quando buciavo rugami. No, io già la cammino di più, la verità. Io anche l'ho tirata, vabbè, non lo dico qua, è una vergogna. Visto che ti vergogni, io già lo so che tu la tira, ma no, ma io ce l'ho di coso di andare più di quel tampolino, la tiro perché c'ho il piede proprio, io non me ne accorgono quando il conta chilometri 80, più di 80 non anda, sennò che la voglio andare io di più. Ma la colpa di Marco, dai papà, che faccio il filmato, voglio vedere a quanto va. E ho tirato un pezzo, però sono arrivato a 200. Sì, lo so, anche la mia ci arriva, ma è meglio stare tranquilli col piede. Coordinamento con il governo. Ma sta ciappanato il dentro, cazzo, di nebbia ne ha patenti subito. E io ma ho fatto un pezzettino così per fare, ha fatto il filmato, perché non ci credesse. E niente, ed ero a gas, Natalia, non ero a benzina. Sì, quelle macchine sono fatte apposta. Cazzo, già, quella macchina tua cammina. Ma di solito vado piano, e l'avevo fatto quella volta lì così. Di solito vado piano, vado a 100, 110, dai. Non è che corro chissà quanto. quando c'è da plantare addirittura fuorreggio allo consumato. Però se stai andando a 100 sei già in multa, anche se puoi correre di più, perché noi in Sardegna strade non abbiamo e quindi nella 131 più di 90 non puoi andare. Per piacere, cos'è? Mettimi il caffè, se no no. Lo so. Lo so che è così, Natali, ma vai a 80-90, che si interrompe tutto il traffico. Ho provato ad andare a 50 dove c'era il limite, ma rivemo con la macchina tutti di sola, di lampeggia, di vasi, spero tutti la pazienza quando vai così piano, anche se c'è il limite. Io ho il punto della VDVD dove dopo il chilometro lì come giri sulla VDVD lì c'è sempre la macchinetta, infatti mi vale pizzicato a me, mi hanno trovato a 72 km orari, non è che lo cammini di chissà canto, eppure hanno preso i punti della partenza, 3 punti più la multa. Ma che hai detto che si mettono? Dove c'è quell'officina di moto e cosa, dove vengono quelle moto strane, c'era presente dove c'è la fermata del tram? Dove però? Allora tu fai il chilometro e poi blocchi per la VDVD, no? Fai un 100 metri e a 100 metri si mettono sempre lì. Ah, ma stabili. Adesso è un po' che non li vedo, però prima erano tutti i giorni, perché accompagnavo aereo, e poi quando ritornavo li vedevo sempre, io da una parte e loro dall'altra, però e li vedevo sempre, capito? Marasucci, allora bidanindo. Ponne la macchinetta e di chitarra canzona. Un autista se ne farà due abbigliati a bozzi perché si nascondono, su internet l'ho visto, che se sono nascosti dietro una curvetta, è la quarta volta, io sto lavorando, l'avete capito che non vi potete nascondere, adesso vi faccio il filmato dove siete nascosti, voi vi dovete far vedere perché provocate anche incidenti, perché le macchine vi vedono all'ultimo momento, frenano e provocate incidenti a catena. Non si vede la macchinetta, è dietro la curva, come fa a vedere? Ecco, è invalidata la multa allora, perché loro si devono far vedere, se sono nascosti non vale più. Cosa succederà? La legge lo dice, non lo dico io. Hai capito? Ma lo si nascondano sempre. Cazzo, roba del ricorso, la più vasta, impressa. E non paghi nulla a me, manco i punti della patente di Nebone Biglia. E una volta alle 4 di mattina stavo tornando a pescare e ho bloccato la strada sotto i vidriati dove c'era fiamma sarda, c'era un autotreno. E loro erano nascosti dietro il rimorchio di questo autotreno, no? Cazzo, passo e mi vedo questo qui di colpo che si mette in mezzo alla strada, in realtà lì mi sono cagato sotto, stavo anche camminando, dico la verità, perché me ne volevo tornare subito a casa prima che mi addormentavo. Beh, questo qui si è messo in mezzo strada, questo carabiniere, ha un po' con un lungo asticheggio, meno male che c'aveva la macchina, c'aveva la BS, quindi ha fatto tu e si è fermato. E questo qui si avvicina, mi punta la pila dentro la macchina e io ho abbassato il finestrino e ho detto guarda che documenti ce li ho dietro nella sacca perché stavo pescando. Le ho chiesto forse i documenti, ha detto no, di solito li chiedete, per quello glielo sto dicendo. Vada, mi ha detto. E ho detto sì, però si calmi perché sono un cittadino onesto, si accomodi. E ci hanno una preso poppea, ragazzo, chi si è abuso di potere mi ha usato. E ma infatti io glielo ho detto, io sono un cittadino onesto, non voglio essere trattato così, capito? Se gli servono i documenti glieli do. E ma il giorno dopo già ho trovato chi di dove, ho già fatto una strigliata. Aiaia. E infatti. Cazzo, allora se sono riuscito a toglierne il ferro dal microfono del 3009. Oh, quel microfono pesa 3 quintali, sa come cacchio è fatto, non l'ho mai aperto. l'ho tolto e gli ho messo subito con l'amplificato perché va meglio. Quello lì mi dicevano tutti che era nasino. Ma il mio ci va bene. Adesso è leggero come una piuma, anche se è grosso come ecco. Bisogna prestarlo sul tavolo e ne scende. E per la prima volta manco un ragazzo a vita e riuscì a cavannirlo. A chi può picciare ne fa la sura. Lo guva, come lo mette alla banca e ne va. Allora è fisso. No, io pure pensavo che era fisso. È incastrato perché c'ha degli spuntoni, però se tu pesti il tappo dove c'è il ferro sul tavolo, ne scende questo ferro ed è grosso, mi sono uno, due, tre, quattro pezzi di ferro sono, uno attaccato all'altro. Ma per cosa l'hanno messo? Non ho capito questo ferro. Perché per appesantire il microfono? Pari un piombo sul microfono. Marco per esempio non ne le hanno messo, c'è lo stesso microfono nostro, però è leggero quello di Marco. Hai capito? Invece chi su gatta va via Ruverro Drentu? Ha già mandato pure la fotografia a Marco per farglielo vedere com'è. Ah, io pensavo che tu stavi parlando del ferro che aveva dentro quella lamiera che c'ha nella capsula MB24. Pensavo che stessi parlando di quello, l'ho sentito l'altro giorno che l'hai detto, però pensavo che fosse quello. No, io non ne ho tolto, c'è l'originale così com'era, l'ho tolto e ho messo l'amplificato. Questo apparato qua stanno sempre con l'amplificato da quando io l'ho preso, dai. Ma quando io l'ho preso c'è sempre l'amplificato attaccato e va bene. Cazzo, a me mi si è crepato il modulatore, il coso, il... cioè lo stadio di amplificazione microfonica. Del 2009 sono quegli apparecchi. Perché stavamo cercando i pezzi. Ma Adriano te l'ha aggiustato? Sì, ce l'ha già pigliato per aggiustarmi. Adesso può darsi che ce li abbia lui pure i pezzi e me li mette ed è subito pronto. Ma non ve lo durerà pulisce il microfono. Adesso se devi mettere l'amplificato devi stare sul chi va. No, lì lascio il microfono suo originale. No, ma lo sai cos'è? Io penso che c'era anche dove è attaccata la colonnina lì, era risaldato e c'erano le piste messe male. Infatti gli abbiamo fatto il ponticello pure. E allora è andato difettoso la casa. Sì, me l'hanno dato già così, difettoso, là. Evidentemente. Adesso lo metti a posto Adriano. Ed esce un bijou. Gira gira, me lo metto in macchina e si rabbiglia in culo. Non lo apre né niente, lo dà omologato e boh. Così non mi muore di niente, la macchina ci posso. Vabbè. Cosa ti stavo dicendo, Natali? A me era successo con una 48 che avevo preso di quelli modificati, però erano modificati dalla fabbrica, ci avevano tutto, ci avevano bip, ci avevano 120 canali, come quelli che fanno i camionisti, la stessa cosa, le cocotte, tutto, però fatto dalla fabbrica. Non so se arrivava da fuori e cosa, fatto sta che cosa l'ho avuto? Un paio di mesi, un giorno sono andato a accenderlo, tutto spento, è giubilato, ti ho detto che tu lo hai giubilato da tanto. Ho chiamato dove avevo comprato e mi ha detto, no, quello lì che forse le ha dato troppa, qualche smorto di corrente, qualche cosa, se. L'ho aperto per vedere se c'era qualche filo staccato, qualche cosa, invece era tutto a posto. Era fiaco di bruciato e basta, direi. Il diodo sarà bruciato. Mi cambiavo il diodo e tornava a funzionare. E io invece ho cambiato l'apparato direttamente, così non avevo problemi. Sì. Ah va, chi su 3009 l'ha già pagato più di Izzu. Dimmi tu, ma ti dispiace, c'è ancora il cielo fa nei tappi. Perché io l'ho comprato nuovo quello lì. Però anche la piastra l'ho piazzato male questi stronzi. Anche il mio c'ha nei bordi c'ha il nastro nero. E poi c'aveva il cielo fa proprio l'ho tolto. io quello lì, quello trasparente gliel'ho tolto che era adesivo, e però sono rimasti nei lati del coupir, che ci sono due strisce di nastro, e quelli li ho lasciati. Prima era nuovo, nuovo, me l'hanno dato mai. A chi lo mio, non era nuovo, nuovo. E più o meno ce l'avevo comprato nello stesso periodo, mi era e un po' dopo tu l'hai preso, dai, però più o meno il periodo era quello. Quando dobbiamo andare a mare una cosa va male, basta, il buco di va, e cosa vuoi va? Sono apparecchi elettronici e può succedere una cosa del genere, a volte anche componenti che magari sono difettosi e ti fa. Cazzo, si era molto la presa di un deve attaccare la colonnina, non c'è una presa per attaccare i cavi. Chi se la muda? Che si muoveva da canto, infatti avevamo mai dato di erano i risalzaduri saccati, bro. Non è che c'è qualche difetto di saldatura a freddo? No, erano proprio staccate, le abbiamo rifatte, le abbiamo fatto il ponticello perché c'erano le piste messe male. Fatto un lavoro del cavolo hanno fatto in quell'apparato. Infatti a me non mi pare che sia nuovo. Forse si immagina fatto burro. Che sia un apparato che hanno usato, l'hanno hanno messo e praticamente perché io l'ho comprato nuovo questo apparecchio. Ma e chi lo sa? E come fai a saperlo? A te tu lo vai a prendere per nuovo e loro se sono disonesti lo fanno. In questo caso sono stati disonesti evidentemente, perché a Adriano non gli sembrava nuovo dentro. Faccia a faccia, fa lavoro. Cucù. Avanti. Sì, io dopo il caffè mi ero seduto qua un attimino sul divano a fianco al baracchino a ascoltare, no? Con un volume moderato. Beh, mi sono abbioccato con una carogna, proprio rumiggio, lo sai, questo è il rimedio contro l'insonnia, il baracchino. Certo, ti abbiamo conciliato il sonno. Viene anche perché poi io basta che faccia poco e sempre torno stanco. Cosa vi volevo dire? Guardate che era questi 3.900, sia questi della Proxel, no, che li fanno in Spagna, sono della Piernas, importati dalla Piernas spagnola, e sia quelli della CRT, sempre i 3.900, avevano un problema di saldature fredde molto molto frequente. Ed erano quei 3.900 fatti a Taiwan, capito? È una cosa molto ricorrente, molti sono lamentati, e quindi a Natalino ovviamente che culo, sempre lui, gli è capitato quello delle salature anche fredde. E in Malaysia dice che è fatto addirittura. È fatto in Malaysia. Malaysia. Ah, Malaysia. Aspetta, forse hai ragione. No, Taiwan, lo sto sbagliando io. Sto sbagliando io, forse da. Comunque sì, un po'. Ne hanno parlato anche sui forum italiani. Un problema di saldature fredde è frequente, quindi ogni tanto bisogna ritoccare. Se capita, dai, se trovi la saldatura basta rifarla. Lo so, anche le piste c'erano un po' compromesse e gli abbiamo fatto il ponte. Dalla saldatura alla pista. Cazzo, le lavori del cazzo proprio. Ma, quando deve andare male, è così. E anche a me era partito, ti ricordi Marco, gli anni 48, quelli che facevano già modificati dalla fabbrica, avevamo comprato uno e l'ho tenuto due settimane, poi sono andato a accendere un giorno e non accendeva più. Passuto. Vabbè, cose che capitano. D'altro tutto ciò che è elettronico, poi i baracchini secondo me non è nemmeno come i cellulari, cioè hanno una classe, un controllo qualità peggiore, cioè se tu di fabbrica vendi un apparato che già ha saldature fredde, che ha un allineamento fatto da un sordo muto, cioè un cieco, anzi non gliene fanno proprio allineamento, cioè trovi che il laterale è fuori tipo 400 Hz. E la modulazione è chiusissima, cioè il controllo qualità che dicono, la verifica, quando è che le fanno le verifiche? Secondo me fanno tutto il macchinario, le saldature, li impacchettano, mettono la confezione e li sbattono fuori così, e poi le tarature te le devi fare sempre tu. Lo smitter che va con tu su. Ma dico, ma stava a mettere il famoso diodo al che cos'era, germanio, non mi ricordo, no? Un diodo schifosissimo che ne avranno a buttare, e lo smitter sarebbe stato più fedele, capito? Non che fa da segnare tutti sballati. Poi fine minile. Mi sono così incazzato. C'era un diodo dove c'è l'affare dell'antenna, che non è il suo addirittura. Quanto accaduto ci ricorda come lo Stato di Israele. Io non lo conoscevo, invece Adriano, cazzo, mentre l'ha visto, chi c'è uno era usuio, cazzo, chi c'è così, chi c'è curandi, ma ha ciappato un poco di difetti, di so così gente, cazzo, vedo abbigliarlo, cazzo, ciappa, chi su mi era venuto se così vi raffronti. Sì, Natalì, ma il tuo non era marcato Proxel, era dalla Spagna, l'avevi preso dall'Italia, da Radio Smitter o dalla Spagna, cioè? Radio Smitter sarebbe con l'italiano. No, dalla Spagna. Ah, allora ricordavo bene. No, perché i miei io l'avevo preso in Italia ed erano quelli marcati Proxel, cioè loro li prendevano magari dall'importatore spagnolo, che è Piernz Communication, e poi ci mettevano quella bollino a rilievo, Proxel sotto lo smitter. No, non è Proxel il mio era spagnolo, ma c'ho le balle che girano a una velocità, cazzo, spaventosa, peggio di quelle del motoscafo che avevo io. A elica, sì, tipo a elica, tipo le eliche di quei aerei della prima guerra mondiale, i cacciacarri, mi che hanno quei come motori a stella, hai visto i pistoni messi a stella a corona? Vista la fotografia del ferro che c'era nel microfono. E ho visto, ma io ho capito una rondella, ho detto vabbè, c'è una rondellina. Oh Gianni, all'anima della rondella. Proprio guarda che faccia, per appesantirlo e far sembrare che sia più pregiato, non dici, più pesante e più buono, no? Anche Gianni ce l'ha così, è pesante. E gli ho detto, per toglierlo devi battere il tappo dove c'è quel ferro sul tavolo e ne farà asura. Perché la prima volta col cacciavite stavo tentando, non sono riuscito. Un attimo, dai, che devo andare a portare il cane, dai, ci sentiamo ragazzi, un continuo questo, io sto andando, dai. Ci sentiamo alle prossime, ciao Gianni, ciao. Ciao Gianni, buona passeggiata col cane. Natalì, quasi quasi ho visto che non ho fatto nulla qua, mi sono addormentato, mi metto la roba a lavare adesso, dai, prima che sia tardi, e poi sentiremo domani o quando capita, ok? Sì, fa come ti piace, tanto fai come ti piace tu. Cazzo, adesso mi tocca chiamare a Franco domani e a dirgli che c'ho il cestello della lavatrice che è frenato, mi sa cosa cazzo io frena. E prima non mi tocchi a comprare la lavatrice nuova. Il fumo, ma senza scherzi, il fumo da dietro. Da dentro il cestello c'è il fumo, perché c'è il cestello che è frenato da qualcosa. Adesso la faccio vedere a Franco e lui già lo sa cosa può essere e se si può salvare, altrimenti se la devo rampare e mi devo comprare la lavatrice nuova. E lì c'è un costo. Figura, tutto all'improvviso, il baracchino e la lavatrice. Non so, tu non sai se è finito un oggetto, un corpo estraneo tra il cestello e la vasca? Non lo so, io la faccio vedere a Franco, io non mi vedo, non è mestiere mio. E certo, tu non puoi agire però da lì, in effetti. E allora se sai, perché c'è volta mia mamma ci lavava i reggiseni, sbatteva i reggiseni in lavatrice usciva il ferretto, quel ferretto tipo del balconcino, finiva dentro tra la vasca e il cestello, e però faceva rumore, te ne accorgevi perché faceva rumore. Io secco perché riuscivo a recuperarlo, perché la mia lavatrice ha il filtro ce l'ha nel cestello, cioè tu nel cestello hai una specie di porticina, la apri e accedi al filtro di scarico, no? Che è in basso nella vasca. Tu, lasciando aperta questa bottola, diciamo, e spostando il cestello, riuscivo ad agganciare il ferrettino del reggiseno, a trovare dove era, lo agganciavo con le mani e lo tiravo fuori. Magari è qualche reggiseno che ha fatto il danno. Vediamo un po'. Adesso praticamente lo dico a Franco che avviene a vederlo. Se no, cavolo, mi tocca comprare la lavatrice nuova qua. Dimmi due. Sì, certo, le notarie, se il cuscinetto, addio. I cuscinetti, la sfera lì, che si inchiodano, magari finisce umidità, si cliccano, ci finisce roba, sedimenti. Per esempio, quella che abbiamo noi, guarda come le fanno apposta per rompersi. Praticamente nelle vecchie tu aprivi la vasca, c'aveva le viti, no? Una guarnizione grande, aprivi la vasca, cambiavi il cuscinetto, quello devi cambiare, e poi la richiudevi, mettevi guarnizione nuova e le viti. Invece questa vasca in fabbrica è elettrosaldata, non si può aprire, se ti rompe, ti si rompe il cuscinetto della lavatrice, ci butti la lavatrice. Non solo, ma la pompa di scarico dell'acqua è dentro la vasca ed è termosaldata dentro la vasca. Praticamente anche quello, se si rompe la pompa di scarico dell'acqua non lo puoi cambiare, si ributta la lavatrice. A meno che non compri il pezzo, ma sai cosa c'è? Tirano vasca, cestello, pompa e l'acqua, ti costa quanto la lavatrice? E infatti faccio prima a comprarmela nuova. E cosa vuoi fare? Ma dimmi Duca, guarda, ho ragione che mi si gira una velocità spaventosa. Eh sì, per esempio la nostra ha iniziato a fare un piccolo rumorino, ogni tanto senti plac plac quando si attiva per scaricare l'acqua, sento clac clac, ha detto qua gatta si cova, magari sta cominciando a partire la pompa dell'acqua, no, quella proprio che gira, che butta fuori l'acqua, vabbè. Purtroppo le fanno fatte per rompersi il prima possibile, così ci devi buttare tutto e vendono un'altra lavatrice loro, capito? Siccome noi i soldi li stampiamo. E infatti noi siamo la zecca dello Stato. Qua. Ma poi quando ti capitano tutte queste cose tutte in una volta, ti si gira in una maniera tremenda. Roba di incazzature mi ho preso. Sì, lo so. Sì, comunque è vero, quando succede un danno ne arriva un altro, tutto assieme, capito? Quindi sono spese tutte in una volta che non riusciamo a ammortizzare. Vabbè, purtroppo è così. Bien. Qua piano piano si sta per far buio, io procederei quasi, dai, tanto mi... Ma tu hai mangiato? Sì, è che hai mangiato. Tu mangi alle 7:15, no? E io ho mangiato anche più tardi oggi, perché mi sono ordinato due pizze, una a me e una a mia moglie, perché non avevo voglia di fare nulla. E abbiamo già mangiato praticamente. Ma che vuoi che ti dica? Io mi ho tagliato due mazzi di coso, di prezzemolo, circa 2 ore di macchina, per metterlo nel freezer. E uno l'ho fatto insieme con l'aglio, no? Così è già pronto e non devo fare nulla. Straordinari panorami, flora. Sì, ieri sera mi stavo riguardando i 3009 della CRT, quelli che io mi sono perso. Allora, a parte il 3009 normale, no? tipo il nostro, no? Che però anziché color perla il frontale era leggermente color alluminio, no? Dove ci sono le scritte, anziché perla, perlato era più tendente all'alluminio il colore. E vabbè, quello è uno. Poi c'era la versione nera col frontalino nero e cromature, che era lo stesso Bella. E poi c'era la versione che aveva la sigla, praticamente era sempre frontalino nero, ma aveva le serigrafie delle scritte retroilluminate, colore tipo verdolino, spettacolare era. Sì, me lo posso immaginare, ma vabbè, io da... ne hai anche truppi di baracchini. Sì, no, a parte che non esistono più e non li fanno più, non li producono. E quindi c'era il normale, poi c'era la versione N che aveva il microfono frontale, c'aveva una manopola in meno e c'era il microfono frontale, forse per essere più compatto. Poi il nero e poi quello con la retroilluminazione. E poi vabbè, il grande è quello che aveva anche il frequenzimetro incorporato, che era abbastanza costoso, quello andava oltre i 250 euro. Non c'è figura. Ma ha fatto appena appena in tempo a arrivare questo, se no sarei rimasto senza baracchino praticamente. Ma perché solo uno ne avevi? 3.900 ci avevo. Usavi il Polmar, esce così bene. Ce l'ho lì buttato qui su. E c'ho anche un 23 canali. Scusa. Oh, magari il 23 canali mi usavo. Sì, ma infatti per stare sul 10 basta anche un canale quarzato, il Pony 6 canali è un canale quarzato. Però una cosa, tagli di questi CRT, i 3.900 della CRT erano più difficili da modificare. Cioè dovevi, per esempio, per modificare i canali dovevi togliere 3 punti di saldatura, no, anche 4, dovevi togliere questo cavetto che toccava 3 punti e in più dovevi disaldare una resistenza. C'era rognoso perché comunque dovevi usare il saldatore, mentre per aumentare i canali questi nostri c'è quel ponticello, no? Tu con le pincette lo togli dal pin, te che ne so, 1 e 2, lo metti tra il 2 e il 3, lo reinserisci, fatta la modifica canali, è eccezionale qua. Sì, l'avevo fatto io, poi l'ho rimesso a posto perché ho detto, se già lo sai la ragione perché la volevo omologato io. Sì, comunque secondo me ogni tanto va fatto, ti dico perché. Perché se tu, come dire, lo tieni sempre solo tipo versione omologata, la sezione di radio che non viene mai alimentata, quella che viene esclusa dal jumper, praticamente prima o poi smetterà di funzionare perché i condensatori non si caricano mai, capito? Non passa mai corrente, invece ogni tanto tu li cambi il jumper, fai lavorare anche quella sezione della radio, poi ogni tanto lo rimetti in versione 40 canali, capito? E allora la volta invece io, labbro di ridotto, cazzo, vato, tutto quanto e me lo metto in macchina quando lo devo usare. E quando non lo devo usare tengo il Polmar come omologato qua. Molto ci vuole. Sì, anche. Certo che la Polmar poteva farlo un po' meglio con l'apparato che usciva bene. Eppure se tu leggi le recensioni, allora il Polmar è il clone del era le Lafayette, come lo chiamavano, e tutti dicono, caspita, questo baracchino esce bene in radio, si sente bene, ci ridavano 5 per dare 5 perfetta, 5 ottima. Lafayette Zeus, ecco qual era il clone della Lafayette Zeus, c'ha solo il frontale un po' meno rifinito, però dentro è lo stesso. Ho detto, ma come fa a uscire bene? Che era una vaccata era. Ma una vaccata enorme, io non ho mai visto un baracchino così vaccata come quello. Sì, è vero, addirittura a Pomponio aveva pagato un saccaccio di soldi, gli avevano fatto pagare un prezzo fuori mercato. E in più, come l'attaccato aveva massimo 1,5 W 2 di portante, cioè 2 W modulati, 2 W. E allora bisognava aumentarlo, non si capiva come si aumentava la potenza, perché non c'è schema, non c'è nulla, non ti danno nulla, non trovi nemmeno modifiche su internet, giammai. Riusciva da far schifo poi, insomma, proprio un baracchino di... Ma non dico il termine. Di palta. Un baracchino di cedda, da, per non dire di peggio. Un baracchino di cagna. Eia. Sì, veramente, guarda. Guarda, ancora va meglio questo famoso CRT Millennium, che vendono anche col nome PNE, aspetta, come si chiama? Vabbè, devo guardare il nome. Quello già è simile, ma esce già meglio. Poi sai già dove il trimmer della modulazione, dove quello dell'FM, ti dicono già, ti danno la modifica se vuoi in tariffate, capito? E costa solo 49,90. Quello, se uno vuole un omologato proprio così, da due siti da tenere in casa, quello è ideale. Sì, infatti. Se costa 49 euro, gira, me lo compro, cazzo. E il 3.900 lo facciamo rullare in macchina. Vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare, vedo un segnalino, un po' tipo il polva, cioè quando tu premi la portante mi pare c'è un ritardo di 200 millisecondi prima che vada effettivamente in trasmissione. Certo, la mutazione non sarà proprio eccellente, magari un po' più cupa, però insomma se la cava meglio del Polmar, molto meglio. Ti dirò che tentavo anche me per avere l'omologato per eccellenza a mia casa, cioè. Però vabbè, già c'è il 3009, c'è questo, poi questo lo stesso è, non c'è niente, esce con quattro platte, ma se non puoi fare nulla qua, non ha trim, non ha niente dentro. È fatta apposta per non essere smanettato, lo sai, questi ultimi President, apri, non c'è un trimmer, non c'è una bobina, si fanno le regolazioni al limite con il menu di servizio, quello delicato. Infatti ho visto gente allibita, sai quelli fissati con le cacciavite veloce, dice l'ho aperto, non c'era neanche un trimmer, ma che cacchio le ha fatti questi apparati? Però non sapevano che c'era un menu di servizio, capito? Ma che vuoi che te dica? Cazzo, questo qua per esempio che ho io adesso, quello che me l'aveva dato, l'aveva tirato, di tutto gli aveva fatto, cazzo, ha preso me dal 60 watt. Ma quale? Quello che ho io adesso, quello che sto usando praticamente, quello lì cazzo, quello che me l'aveva dato l'aveva messo a mano, cazzo, e poco pompava. Ehi, quello è doppio finale, però vedi, una cosa è averne 30 di watt utili, 30, 35, 40, però già, se li raddoppi i watt stai ammazzando i finali, cioè ti durano magari la metà della vita, capito? Metà della vita del finale, la corci. Ma io lo lascio così questo, già funziona bene, al limite mi busco un linearone, quando lo compare, lo lascio a 2 watt, e il resto glielo da allineare. Guarda, lì basta mettere 4 watt di pilota, un RM KL 203 e c'hai già 60-65 watt puliti, no, puliti tra virgolette, sporchi nel senso che i linearetti creano un sacco di mondezza, no? Spuri armoniche, infatti la RM Italy raccomanda caldamente un filtro, quello 27/586, un passo a basso mi sarebbe, per non mandare spurie in V e in U, capito? Io ho capito, ma io lo userei solo in banda laterale, lineare, non qua. Cosa lo usi qua? Ma sono 2 watt per parlare qua. No, ma c'è bello anche usare qualcosa in più, almeno se riprendi separati in due, almeno passa quello più forte. Guarda, non ne ho mai usato io lineari, proprio, no. Non mi biasimi. Anche perché i natali costano, cioè tu conta, rispetto ai 4 watt, no, per salire di 2 santiaghi, no, e spendi quei 50, vabbè, una volta era 50, 60 euro spedizione compresa, c'hai l'ineretto. E ci siamo. Il rapporto migliore prezzo-prestazioni. Però se vuoi salire di un ulteriore Santiago, devi spendere 4 volte tanto, perché ormai lineare tipo quello che ha Gianni, il 503, costa 250 euro e oltre, capito? 6x4, 24, si devi quadruplicare la spesa per salire di un misero Santiago in più. E allora lì non ne vale la candela, però 60 euro per salire di 10 dB o giù di lì non è male. Non è male, no. Oh, poi qualcuno dice, però anche salire di un Santiago, no, metti che hai quei 20-30 watt, ma salire di un Santiago non ti cambia nulla. E dipende però, perché se tu sei al limite come capibilità, no, rispetto all'interlocutore, quel Santiago può fare la differenza tra essere sentito o non essere sentito. Sì, infatti, oggi c'è la propagazione.